Con Giulio Marcon di Sbilanciamoci per parlare del rapporto 2019 presentato il 27 novembre a Roma. Giulio, ben trovato. Buongiorno. Come usare la spesa pubblica per i diritti, la pace e l'ambiente? 101 proposte per cambiare l'Italia. Ce ne parli un po'? Sì, è il nostro 20° rapporto della campagna Sbilanciamoci, abbiamo incominciato nel 99 e ogni anno cerchiamo di capire come si può usare in modo diverso la spesa pubblica per un modello di sviluppo che sia improntato all'equità, alla sostenibilità, all'eguaglianza e quindi anche quest'anno abbiamo elaborato una nostra legge di bilancio che è diversa da quella che ha fatto il governo, ovviamente con principi e ispirazioni diverse. Noi pensiamo che questo paese ha bisogno di lavoro, ha bisogno di redistribuzione della ricchezza, ha bisogno di investimenti nello sviluppo sostenibile. Ed ha bisogno di una visione che non c'è nel contratto di governo, che è un contratto tra controparti, e quello che manca è un'idea del futuro di questo paese. Questo che a noi colpisce di più, oltre al fatto che la manovra è una manovra comunque opaca, nel senso che i numeri che vengono dati non sono attendibili, le cifre, le percentuali sulla crescita, sul rapporto deficit-PIL, sull'indebitamento non sono attendibili, non lo diciamo noi, ma l'ha detto in modo più diplomatico e più felpato l'Ufficio parlamentare di bilancio, ma anche l'Istat. E poi ci sono le due principali misure della legge di bilancio, che sono semplicemente delle poste di bilancio, delle poste finanziarie, che ci sono i soldi, ma non c'è scritto come verranno realizzate. Parlo di quota 100 e del reddito di cittadinanza. Ora confrontarci su una manovra che è così opaca e così contraddittoria è veramente un'opera ardua. Noi nella nostra legge di bilancio, quella che vorremmo noi, invece indichiamo concretamente le cifre, 101 proposte molto dettagliate, non aumentiamo il rapporto deficit-PIL e l'indebitamento, troviamo soldi dove di solito non si trovano mai, cioè colpendo le grandi ricchezze, i grandi patrimoni, riducendo le spese militari e facendo quello di cui oggi il paese avrebbe bisogno, cioè investire per il lavoro. Questa è la cosa fondamentale che oggi bisogna fare. Sarebbe una manovra di bilancio, leggo, da 38,5 miliardi di euro a saldo zero. Ecco, quali sono i punti qualificanti su cui centrate la manovra? Per quanto riguarda le risorse, come ricordavo prima, intanto la riduzione, la nostra spending review, che per noi spending review significa ridurre principalmente le spese militari e le spese per le grandi opere inutili, ma soprattutto le spese militari, bloccare i sistemi d'arma costosissimi come gli F-35. In questo modo riusciremo a recuperare più di 4 miliardi e 200 milioni di risorse e di euro. E poi un'azione di giustizia fiscale. Noi pensiamo che vanno ridotte le tasse ai due scaglioni, diciamo, che stanno in fondo, gli scaglioni, diciamo, che cui sono concentrati i lavoratori dipendenti, i lavoratori precari, ecco, lì bisogna ridurre di almeno un punto percentuale, però bisogna incrementare, accentuare la progressività fiscale sull'IRPEF e poi fare veramente due grandi riforme fiscali che questo paese non ha e che non ha l'Europa. Naturalmente si tratta di riforme che hanno bisogno di una concertazione europea, ma l'Italia può fare già la sua parte. Fatto riferimento alla Tobin Tax, quindi alla tassa per colpire le speculazioni finanziarie. Ricordo che in Italia ce n'è già una, molto all'acqua di rose, che è stata introdotta dal governo Monti addirittura nel 2012, però è assolutamente insufficiente. Si potrebbe rafforzare in quella direzione la Tobin Tax e poi una digital tax vera. Nella scorsa legge di bilancio sono state introdotte per l'appunto alcuni dispositivi molto timidi, ancora non sono di fatto partiti. Vediamo che ogni qualche mese, diciamo, c'è o Google o Facebook che fanno gli accordi con il nostro fisco per versare una piccola parte di quello che non hanno mai versato. Ecco, da queste misure e da altre misure si possono recuperare decine di miliardi. Per fare cosa? Intanto noi diciamo almeno 10 miliardi di investimenti pubblici. In questa legge di bilancio ce ne sono 3 miliardi e mezzo, e si tratta veramente di briciole. Noi diciamo almeno 10 miliardi di investimenti pubblici. riqualificazione delle nostre coste, piccoli cantieri, occasioni per le imprese di partire e di creare posti di lavoro. E poi un investimento importante nel welfare. Abbiamo una sanità e una scuola che sono sottofinanziate. Addirittura, se noi vediamo le previsioni sul PIL nei prossimi anni, la percentuale di spesa pubblica per sanità e scuola caleranno, e questo non è possibile. Quindi un investimento nel welfare, anche noi siamo per un reddito minimo, ma che sia un reddito minimo legato a principi e criteri diversi, e partire da un'esperienza che c'è già in Italia, che è il reddito di inclusione. Sarebbe utile allargare e completare, diciamo, quello che è stato fatto in quella direzione, anziché, diciamo, imbarcarsi in un'opera che sembra molto confusa e molto contraddittoria, di cui si sa ancora veramente molto molto poco. Mm-hmm. Ecco, queste sono alcune delle misure, sono 101, quindi non posso citarle tutte. Certo. Mi danno il segno di una sostenibilità diversa. Ricordo che noi spendiamo ogni anno 16 miliardi di euro per i cosiddetti sussidi ambientalmente dannosi, sussidi che vengono dati ad imprese per delle produzioni o per delle attività che creano danni all'ambiente, alterano i cambiamenti climatici, e per i quali poi dobbiamo intervenire con altre risorse per riparare i danni di questi sussidi. Ecco, sarebbe più intelligente riconvertire questi sussidi ambientalmente dannosi nei cosiddetti sussidi ambientalmente favorevoli, che sono sussidi che creano posti di lavoro, perché se investi nelle energie pulite, invece di dare incentivi a pioggia, incentivi appunto alle aziende, alle imprese che hanno pannelli solari o fotovoltaici o macchine elettriche, tutto questo, diciamo, può dare occasione alle imprese di fare business, diciamo così, e di creare posti di lavoro e di dare al paese un ambiente più sostenibile. Che squadra avete e materialmente su che dati lavorate? È una squadra intanto fatta di associazioni, siamo 45 associazioni e su alcuni temi siamo molto preparati, perché queste associazioni lavorano da anni. Penso, che ne so, al WWF Lega Ambiente, sulle questioni ambientali sono ovviamente molto molto ferrate, molto esperti, ma ci sono tutte le organizzazioni studentesche che fanno parte di Sbilanciamoci, che anche loro sulla scuola lavorano con grande appropriatezza. Ci sono le associazioni che si occupano di welfare, di sanità, cittadinanza attiva, un'area che si occupa di immigrazione. Quindi abbiamo persone di associazioni competenti che lavorano su questi temi. E poi abbiamo degli esperti, di tecnici, docenti universitari, ricercatori, abbiamo anche, diciamo, ma ovviamente non possiamo fare i nomi, diciamo, tecnici che lavorano nei ministeri, che ci danno una mano, che hanno, come si dire, una simpatia verso il lavoro che stiamo facendo, e quindi ci garantiscono, come si dire, anche un flusso di informazioni importanti, diciamo, su quello che si discute dentro i ministeri e dentro il governo. Ecco, tutto questo ovviamente garantisce, noi speriamo, una qualità della campagna, e credo che, insomma, dia anche il senso della serietà del lavoro che stiamo facendo ormai da molti anni. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web rispetto alla controfinanziaria e anche rispetto a Sbilanciamoci? Sì, guarda, allora lascio due riferimenti. Il primo è il sito, è www.sbilanciamoci.info, dove si può scaricare la controfinanziaria, la legge di bilancio, la nostra legge di bilancio. Ci sono anche molte tabelle, molti approfondimenti, si possono scaricare le diverse sezioni, solamente le diverse sezioni. Ci sono molti dati statistici, quindi credo che sia molto molto importante. E poi, chi vuole organizzare iniziative, saperne di più, si può scrivere a info@sbilanciamoci.org. Ricordiamo allora il rapporto Sbilanciamoci 2019, presentato il 27 novembre scorso a Roma. Un saluto e un ringraziamento a Giulio Marcon. Grazie a voi, il vostro lavoro. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi.